Venerdì 21 novembre, radiazione, oggi diretta d'azione con controinformazione, riflessioni, provocazioni e musica. Ricordo che come già da qualche settimana a questa parte siamo ritornati con la programmazione classica, quella con il lunedì dove c'è la controinformazione e la lettura. Stiamo leggendo Nessuno ci salva di Sergiu Piasecki. Per chi non l'ha conosciuto, ci sono i podcast nella pagina appropriata, per dove trovate tutti i podcast di radiazione. Invece per il venerdì la controinformazione con gli approfondimenti, che sono le riflessioni e qualche provocazione, ovviamente immancabile provocazione, la musica. Avete riconosciuto la voce, non è Marcello a cantarmi. No, oggi è venerdì, quindi voce femminile come Marcello, c'è una voce molto più squillante. Allora, ricordiamo gli indirizzi utili per radiazione: radiazione@autistici.org per chi vuole mandare scritti, comunicati, materiale da far apparire, le news da far apparire sullo sito di radiazione. Lo ricordo che chi manda materiale da far pubblicare su radiazione è meglio che si andasse a leggere nell'articolo vecchio le cose che non verranno mai pubblicate. Poi un giorno al limite le scriveremo sul sito, così sono sempre presenti e ben visibili. Sì. Ricordo anche di mandare qualche consiglio per i libri che si leggono il lunedì, che non sono testi anarchici ma testi di narrativa, con bene o male, con tematiche bene o male diciamo affini ai contenuti che trovate su radiazione. E questa era per la mail. Invece il sito è radiazione.org, dove potete leggere quotidianamente la controinformazione aggiornata, dove potete, come ho detto prima, riascoltarvi i podcast. Ora non c'è più la categoria, c'è una pagina, li trovate là senza andare a cliccare pagina articolo per articolo, ci sono tutti là, ci sono le date, basta cliccare play sul lettore e vi va la diretta d'azione del giorno X. Allora, sito di radiazione, dove potete anche scaricarvi un po' di materiale attraverso la pagina di download, dove vengono pubblicate tutte le cose che o da parte nostra o da parte di altri compagni vengono messe a disposizione liberamente, senza nemmeno un minimo prezzo, da diffondere così gratuitamente. Ci trovate opuscoli, manifesti, locandine, cd, tutto quello che viene mandato lo trovate nei download. La radio trasmette sul server anarchia.net, messo a disposizione dal compagno di The Anarchist Library, che salutiamo sempre per tutto l'aiuto. Allora, ora, prima di iniziare la diretta d'azione, anzi, facciamo un saluto, visto che abbiamo saputo che qualcuno dalla Grecia, compagna dalla Grecia, sì, facciamo... lo fai tu in inglese così. Dear comrade from Greece, we know that you're listening now, we send you our greetings from Italy. Hello, bye. Ecco, io delle... Enjoy! Ecco, io delego la traduzione in inglese a lei. Sono io la colpevole della traduzione in inglese. Altrimenti non si capirebbe una benemerita sega o un benemerito cazzo. Allora, ora ci ascoltiamo, prima di partire con la controinformazione e con le prime riflessioni, ci ascoltiamo prima un brano degli RTPN Termination, e poi dopo si torna qui e si inizia subito con la prima notizia di controinformazione. We'll be right back. questi, come detto, erano RTPN con il brano Termination. Ora si passa alla prima notizia di controinformazione della giornata. Oggi nemmeno fa la posta, scusano dalla Grecia. E soprattutto tutto parleremo sarà una giornata della Grecia. Sulla Grecia, perché voi la... lo sciopero della fame che sta portando avanti il compagno Nikos Romanos da 10, se non sbaglio, sì, 10 novembre. Poi si sono aggregati i suoi coimputati, compagni coimputati nella doppia rapina di Veventos a Kozani, e poi ci sono anche altre riflessioni di Nikos per quanto riguarda le organizzazione sigle, video, acronimi e roba varia, una cosa alla volta. non leggeremo tutto insieme, ma leggeremo uno ogni tanto, quindi non abbiate paura. No, dicevo, ancora un contributo che va ad alimentare il famoso dibattito sull'anonimato, che qualcuno piange, che e continua lacrime. Fortunatamente, però, questa volta l'hanno pubblicato anche loro. Sì, ne parleremo più avanti quando leggeremo il testo di Romanos. Allora, dicevo, prima notizia, abbiamo detto che Nikos è in sciopero della fame, l'hanno seguito a ruota i suoi compagni e coimputati della doppia rapina. Quindi leggiamo il testo in cui viene annunciato lo sciopero della fame a rotazione degli altri compagni. Il prigioniero anarchico Ioannis Mihailidis ha annunciato ieri 17 novembre 2014 che gli anarchici arrestati per la doppia rapina a Velventos entrano a rotazione in sciopero della fame delle carceri di Korydallos, in solidarietà con Nikos Romanos, che è in sciopero della fame dal 10 novembre. Esigendo che gli vengano concesse le uscite dal carcere per gli studi a cui ha diritto sin dal settembre 2014. Ioannis Mihailidis, che è il primo ad iniziare lo sciopero a rotazione a partire da oggi, dice tra le altre cose nella sua dichiarazione, che poi dopo andremo a leggere per intero, in questo caso che il compagno e fratello Nikos Romanos ha messo il suo corpo come una barricata per ottenere un'uscita dalla soffocante condizione di incarcerazione. Ho cercato di mostrare la mia solidarietà di fatto. Dal luogo dove anche io mi trovo, ho deciso di partecipare allo sciopero della fame a rotazione, che iniziamo con gli altri compagni con cui fummo arrestati dopo la rapina a Velventos. Da 17 novembre entro in sciopero della fame fino a quando la richiesta di Nikos Romanos verrà accettata. Questa nostra decisione vuole essere un contributo all'attivazione di altri compagni che si trovano fuori dalle mura, perché si moltiplicano e affinano le azioni solidali e multiformi, aprendo così un fronte di guerra in più contro lo Stato e di conseguenza un altro campo di consapevolezze per i nuovi compagni. Inoltre Ioannis Mihailidis mostra la sua solidarietà a Iraklis Kostaris, membro detenuto dell'organizzazione rivoluzionaria 17 novembre, che è in sciopero della fame dal 29 ottobre 2014, chiedendo che gli vengano riconcesse le uscite dalla prigione per i corsi di studio educativo a cui ha diritto. Quindi uno sciopero simile a quello di Nikos. Questo era il testo in cui i compagni rendono noto che entreranno in questo sciopero a rotazione. Praticamente inizia uno, poi dopo inizierà un altro, e così via via, anche se ho capito che non si alterneranno nello sciopero, perché dalla lettera che poi dopo leggeremo di Mihailidis dice che anche lui porterà lo sciopero avanti fino a quando non verranno accettate le condizioni e alle richieste di Nikos. Quindi si allarga lo sciopero della fame in Grecia da parte sia dei compagni detenuti, ma come abbiamo letto la settimana scorsa, questa settimana qua, lunedì scorso, degli altri 75 prigionieri comuni nel carcere di Korydallos, che hanno iniziato uno sciopero della fame, hanno fatto 2 giorni di sciopero della fame in solidarietà con il compagno. Allora, Questo era per quanto riguarda il testo che chiama e ci rende noto dello sciopero della fame iniziato da gli altri compagni imputati per la doppia rapina a Ventos e Cozzani. Ora ci ascoltiamo un altro brano, loro sono Rabbi Jung, il brano è The Struggle ovviamente, e poi dopo si torna qui e si legge il testo di Michailidis. Continuiamo con la Grecia, come abbiamo già detto prima, il compagno Yannis Michailidis è entrato in sciopero della fame in solidarietà con il compagno Nikos Romanos, e questo che andremo a leggere adesso è il suo annuncio dello sciopero della fame. Nelle avverse condizioni di prigionia, dove la vita quotidiana si riassume nella parola sottomissione, i mezzi con cui lottare sono minimi. Qui, dove la prospettiva di una completa liberazione sembra lontana, contro la capitolazione totale che ti offrono come l'unica scelta, arrivano dei momenti quando la negoziazione la consideri utile. Non importa quanto il negoziare con l'autorità è per noi estraneo. In nessun caso però negozieremo le nostre caratteristiche anarchiche, non faremo un passo indietro sull'integrità delle nostre parole, non venderemo la nostra lotta per la quale ci troviamo ad essere ostaggi dello Stato. Perciò anche la scelta autodistruttiva di sciopero della fame, che increspa la facciata umanitaria dello Stato, è utile. Minaccia di mettere a nudo la natura assassina dello Stato contro i suoi soggetti illusi ben nutriti. La natura assassina e tirannica dell'autorità, come quella vissuta da ogni essere vivente che soffre e viene assassinato nelle fabbriche, nelle zone di guerra, nei campi minati di frontiera, negli allevamenti, nei laboratori e nei macelli, nelle carceri e nelle cliniche psichiatriche. Ed è utile per qualunque richiesta che ogni detenuto in sciopero della fame considera cruciale per se stesso, sia per le proprie condizioni di vita, dignità, che per la libertà. In questo caso, dove il mio compagno e fratello Nikos Romanos utilizza il proprio corpo come una barricata per ottenere un modo di uscire dalla condizione asfissiante della carcerazione, ho cercato un modo per esprimere la mia solidarietà in pratica. Dalla posizione in cui mi trovo nella presente situazione, ho deciso di partecipare allo sciopero della fame a rotazione, iniziando con noi, compagni arrestati per la doppia rapina a Velvedo. Da oggi, 17 novembre, inizio lo sciopero della fame fino a quando verrà soddisfatta la sua richiesta. Con questa nostra scelta intendiamo contribuire ad un'ulteriore mobilitazione dei compagni fuori per moltiplicare e intensificare le azioni multiformi di solidarietà, per aprire un altro fronte di lotta contro lo Stato e quindi anche un campo di consapevolezza per i nuovi compagni. I tempi duri che stiamo vivendo sono un motivo in più per una lotta più dura e senza compromessi, perché lo Stato costruirà sempre delle correlazioni sociali, facendo della lotta individuale o dell'insurrezione collettiva un oggetto di punizione severa. È ora di liberarsi dal realismo disfattista e dalle decisioni soppesate di ritirata che concedono sempre terreno a un nemico, rimandano l'azione per un futuro che l'inattività stessa rende inevitabilmente ancora più nefasto. È necessario superare noi stessi e le percezioni inculcate che ci trasciniamo dentro di noi. Solidarietà agli scioperanti di fame Nikos Romanos e Iraklis Kostaris. Solidarietà significa attacco. Firmato Yanis Mihailidis e in postscriptum si riferisce a Iraklis Kostaris, che è un membro detenuto dell'organizzazione rivoluzionaria 17 novembre. Non un membro deputato, come ho letto male io. Vabbè, questo era il testo di Mihailidis, che appoggia il suo compagno e amico, anche Nikos, okay, Romanos, condannati per la doppia lotta rapina. Che diciamo pure tranquilla, perché qua in Italia ci sono tanti filosofi, tanti professori dell'anarchismo, tanti esperti studiosi. Una lotta del genere farebbe correre i brividi sulla schiena a qualcuno. Ah no, ma lui sta rivendicando il diritto allo studio, mica sta rivendicando qualcosa di anarchico. Ricordiamo che chi sta in carcere ha a che fare con quella realtà, quello infatti è il mondo, quello è un mondo a parte. E quindi e questi compagni sono stati condannati tra 15 anni di galera. Quindi, ragazzi, compagni giovanissimi, tra l'altro 20 anni stati, più o e meno. Poi comunque le lotte in carcere si fanno anche per avere la mela in più, con gli strumenti che si ha in carcere. Sì, ovviamente non deve essere la lotta di quelli che stanno fuori a far ottenere la mela in più. In questo caso dare il sostegno al compagno, cosa però è accaduto pure nel passato. C'era un giornale, mi ricordo come si chiamava, non facciamo nomi, già sono nemici perché erano, sono mutati nei nomi dei giornali, ma sono rimasti loro. però appoggiavano tutte le lotte dei detenuti a prescindere, scindere tutti nello stesso calderone. In base a quello poi è stata aperta l'operazione Shadow, dove sono indagati anche Alfredo Cospito, Nicola Gai e altri compagni, perché stavano distribuendo un giornale su cui c'erano solo articoli in risposta a questo giornalaccio che usciva all'epoca. Ora, di quella gente là, chi ha fatto il botto e chi ha fatto chi purtroppo si trova in carcere perché è passato da delle lotte sociali, le cosiddette lotte sociali, in Val di Sosa per la TAV. Allora, giusto per fare le provocazioni mancabili, giusto perché non devono mancare le provocazioni, giusto per far rodere il culo a qualcuno, e quindi l'ho detto. Ora ci ascoltiamo un brano di Matt Banana, il brano Infection Defective, e poi dopo si torna qui e ancora controinformazione. We'll be right back. Allora, questi erano Matt Banano, ci stavamo sgrovigliando dai cavi. Allora, passiamo in Italia. Dopo aver fatto un breve viaggio in Grecia, dopo ci ritorniamo. Si va in Italia, si va prima in Italia e poi ci finiamo in Cile. Un giro del mondo in due minuti. Abbiamo battuto anche il record degli 80 giorni. Chi era che lo faceva? Willy Fogg si chiamava. Chi cazzo lo sa, non sappiamo chi cazzo era. Infatti ce lo sapere. Ci ha messo 80 giorni per fare il giro del mondo. Chi cazzo glielo ha fatto fare? Vabbè, però si è divertito. Allora, dicevo, andiamo in Italia con una notizia, un aggiornamento per quanto riguarda l'operazione Shadow. È stata fissata per il 14 gennaio 2015 l'inizio del processo d'appello dell'operazione Shadow, appello richiesto dalla PM Manuela Comodino, come ho detto, Comò, tre civette su Comò, Ambaravacci Cicocò, Manuela Comodi o Comodi. Nota per fare i suoi porci comodi, la manuelita nazionale. In primo grado tutti i compagni accusati di 270 bis sono stati assolti, un compagno condannato a 3 anni e 3 mesi per furto d'auto. Questa era per quanto riguarda la notizia che arriva da Perugia sull'operazione Shadow. Invece si va in Cile ora con un altro aggiornamento, quello sul processo al compagno anarchico Victor Montoya, in Cile, dove è terminato con tanto di spettacolo da parte della Procura Sud il secondo processo contro Victor Montoya. Io mentre traducevo, cioè, mi veniva da ridere a leggere quello che è tragicomico che stavo traducendo, però ora lo leggiamo e vi renderete conto del perché. Allora, dopo diverse settimane di processo contro Victor Montoya, accusato di attacco esplosivo alla caserma di Vizcachas, verso la fine del nuovo processo, su richiesta della procura, tutto il tribunale al completo si è diretto verso la stessa caserma, gita scolastica. Durante la mattinata del 13 novembre 2014, giudici, pubblici ministeri, avvocati, querelanti, difesa e Victor hanno dovuto recarsi alla caserma di Vizcachas. Lo spettacolo è stato montato e celebrato da Raul Guzman, Cristian Toledo, Hector Barros. I pubblici ministeri nella zona sud, denominatosi sedicenti esperti di terrorismo. Il tour repressivo nel mezzo del processo ha incluso una visita all'interno della stazione di polizia, nel varco dove presumibilmente erano entrati coloro che avevano posizionato l'esplosivo nel retro della caserma. Infine hanno approfittato per visitare anche Avenida Eizaguirre, dove secondo i testimoni sono scappati gli autori dell'attacco. Fuori dal luogo, familiari e amici di Victor hanno deciso di solidarizzare con lui. Dopo quest'ultima commissione terminò il secondo processo contro Victor. E oggi, praticamente è ieri, ma qua siamo con gli orari sfasati, il fuso orario è grosso, praticamente il 20 novembre, ora è 13.50, la Corte ha pronunciato la sentenza per vedere se ha ritenuto colpevole o innocente per le accuse imputate dalla Procura del Sud. Nel frattempo i persecutori hanno chiesto che Victor sia condannato con la legge antiterrorismo a 6 anni di carcere. Allora, vabbè, dopo, cioè, hanno voluto chiudere in bellezza, dato che in Cile c'è tutto questo allarme terrorismo, forse ora inizieranno a fare come gli americani, a portarli a fare giro tipo alle Twin Tower, delle mete terroristiche, non lo so, non lo so dove andranno. A Genova si può andare sotto la casa di Andinolfi, si va a fare un giro sotto la casa di Andinolfi e si vede il luogo dove è stato azzoppato Andinolfi. In Messico, dove qualche anno fa hanno fatto fuori la pattuglia, staranno mettendo delle targhette in ricordo delle azioni. È così è avvenuto in Cile. Tutto ciò avviene, ora ci stiamo scherzando su, sotto una campagna antiterroristica, ma che di fatto è terrorista, sì, da parte dei media, del governo, delle forze repressive. Ricordiamo che ci sono i tre compagni e ancora non si sa niente che cazzo di fine hanno fatto, cioè, nel senso che si sanno le notizie, però ancora non si capisce bene qual è la situazione, mi riferisco a Juan, Nathalie e Guillermo, che sono detenuti dopo gli attacchi a... sono stati accusati per gli attacchi alla stazione, al subcentro, e quindi dove c'erano stati 14 feriti tra i civili. Quindi anche questo spettacolo avviene in quel clima là, in quello scenario. Ovviamente il procuratore lo conosciamo bene, perché Raul Guzman è quello che comunque ha fatto arrestare in passato, ha portato avanti anche altre inchieste belle grosse, se non mi sbaglio, tra le quali anche il caso Bombas. È un riciclato di merda che ne fallisce una e ne riapre un'altra. E Cristian Toledo è uguale, perché anche lui normalmente è associato a Guzman nei processi contro i compagni anarchici in Cile. Allora, questa era per quanto riguarda la notizia che ci fanno avere i compagni cileni. Sul sito di Radioazione potete anche vedere le immagini del giro turistico di tutto il tribunale a completo, e poi anche la parte solidale con Victor Montoya, i compagni, i familiari e gli amici che stavano lì fuori dal tribunale. Allora, ora ci ascoltiamo un brano che io ancora non ho scelto, ovviamente, perché tu mi dai a parlare. Allora facciamo una cosa, scegliamo il primo Bonnie und Clyde, Bonnie e Clyde è in tedesco, di Toten, e poi dopo si torna qui e ancora controinformazione. Allora torniamo di nuovo in Grecia con due azioni in solidarietà con i compagni che si trovano in sciopero della fame. Una risale al 17 novembre, praticamente la mattina di lunedì 17 novembre della mattina, quindi abbiamo incendiato un veicolo dell'impresa privata di sicurezza Stargard in strada Anagenniseos, nella zona di Metamorfosi, come dimostrazione minima di solidarietà con gli scioperanti della fame Nikos Romanos, Iraklis Kostaris e Yannis Mihailidis. Forza a tutti quelli che non sono di questo mondo, la guerra continua. Firmato Type N Arsonist, cioè quelli che danno fuoco, come si dice in italiano, incendiari di tipo N. L'altra invece è apparsa oggi, però risale al 19 novembre. L'altro giorno, l'altro ieri. L'altro ieri, sì, sempre ovviamente in Grecia, dove sono stati attaccati gli uffici della Nea Dimocratia. Sempre di mercoledì mattina abbiamo fatto visita all'ufficio dell'organizzazione locale Nea Dimocratia, che si trova tra Gade e Dipartimento di Polizia di Ampelokipi, per esprimere la nostra solidarietà a Nikos Romanos e Iraklis Kostaris in sciopero della fame, che insiste sui permessi d'uscita di studio che dovrebbe avere, ma gli vengono respinti dal consiglio giudiziario del carcere di Korydallos e dal tirapiedi giudiziario del nome Nikolopoulos, che lo sappia tutto il territorio. Esprimiamo la nostra solidarietà anche a Yannis Mihailidis in sciopero della fame, in solidarietà con gli altri due scioperanti, come anche a tutti gli anarchici detenuti, nemici politici del regime. Come dici tu, forza. E questi erano i due modi di esprimere la solidarietà, esprimere in modo concreto la solidarietà ai compagni in sciopero in Grecia, nel carcere di Korydallos. Invece facciamo una precisazione, ne stavamo parlando ora, sì, visto che la notizia è apparsa boh su tutti i siti anarchici di controinformazione internazionale, ha superato i confini dell'Italia, di questa bomba che c'è stata, che non è esplosa poi tra l'altro alla Deutsche Bank qui a Napoli, tutti l'hanno postata sui propri siti, ma ci teniamo a precisare che comunque è una bomba messa da rapinatori comuni che stavano cercando di far fuori lo sportello bancomat e sono dovuti scappare perché evidentemente è andato storto durante la rapina e quindi purtroppo non sono riusciti a portarsi via il malloppo, ma hanno dovuto anche lasciare infatti quindi ci tenevamo pure a precisare questa cosa, visto che, lo ripeto, è apparsa come notizia su vari siti di controinformazione anarchica. Non ci incazzo un cazzo con i compagni anarchici, non è un fatto di pararsi il culo, no, è un fatto di dire la verità. La verità è questa: erano semplici rapinatori che non sono riusciti a portare a termine il colpo. Allora, questa era per quanto riguarda le due azioni in Grecia e quella a Napoli che non è anarchica. Continuiamo con la diretta d'azione ascoltandoci un altro brano, loro sono The Hardwire, Burn It Down, giusto per seguire le due azioni fatte in Grecia, e poi dopo si torna qui e ancora controinformazione. Time for our own right. One for the fear of breaking in our sight. Pushing the limit. Allora, questi erano Hardwire con il brano Bunny Down. Ora si legge un testo che non è apparso su nessun sito, perché lo leggiamo direttamente dalla bollettino, dal nuovo bollettino dei compagni di Croce Nera Anarchica. Uno scritto di una compagna che fa parte del progetto di Croce Nera Anarchica, è in risposta a un testo di Juan, il compagno detenuto anche all'epoca per gli scontri, per la lotta Notav, non mi ricordo bene i reati effettivi specifici quali erano. Comunque lui, attraverso una rivista, Besnaccialie aveva scritto questo testo sull'azione, su come lui vede l'azione nella propria vita e cosa è l'azione per lui e quanto per lui la vita sia felice e bella, io direi, quanto per gli altri. Cioè, almeno io, da leggere questo suo articolo, avevo la sensazione che per gli altri invece la vita sia una continua flagellazione fatta di dura militanza e pura. Allora, leggiamo il testo di risposta, è firmato, così diciamo, sì. No, il testo di risposta di Anna, la compagna del progetto di Croce Nera Anarchica. La vita o la lotta? O la vita, la lotta? Credo sia bello e importante che arrivano dei contributi alla discussione. Ho letto quello qui sopra pubblicato, che mi pare nasca in risposta all'articolo Tutto il resto è noia. Alcune note sparse all'azione diretta, sull'azione diretta, pubblicato su numero 0, anticipando un'eventuale risposta di Nicola, che i tempi loro sono un po' più lunghi. Mi intrometto nella discussione e provo a spiegare la mia. Dello scritto di Juan ho condiviso pienamente alcuni passaggi. Ribadire la tensione costruttiva e distruttiva assieme proprio dell'anarchismo ben vissuto, il mettersi in gioco, la sperimentazione continua, il non porre gradualismi sui momenti alti e bassi di lotta. Altri li ritengo schematici e superficiali, soprattutto quando ipotizza una lotta militante rivoluzionaria, contrapposta alla pienezza e al godimento della vita. Banale e poco rispettoso schematismo, soprattutto considerando che un individuo che abbia scelto di non farsi governare, di contrapporre la propria tensione di libertà alla scelta segnata dal dominio, la vita se l'è vissuta, se la vivrà, e forse se la sta vivendo appieno, nonostante gabbie o altri incidenti di percorso. L'equivoco di fondo, credo, sia uno. Quando qualcuno pone l'accento sulla necessità ineluttabile dell'attacco, sul fatto che gli anarchici debbano portare avanti azioni distruttive, cioè sintetizzando che non ci si limiti a fare atto di innocua presenza e denuncia sugli innumerevoli aspetti di questo marcio mondo, nocività, sfruttamento, eccetera, quando si sta facendo ciò non si sta diventando partigiano, militante, settario, chiuso e sacrificato, piuttosto si sta cercando di costruire quella conseguenzialità tra pensiero ed azione a cui tendiamo e che sola può garantirci la pienezza del vissuto. Ogni giorno ogni individuo con una tensione antiautoritaria prova o dovrebbe provare a vivere la propria vita, la propria anarchia, non è retorica, è la realtà. Porre l'accento sulla necessità dell'attacco distruttivo non significa denigrare o sottovalutare gli altri aspetti della vita di un anarchico, di un individuo alla ricerca della propria anarchia. Per azione diretta, per convenzione linguistica, negli ambiti antiautoritari si intende l'azione non delegata, non mediata. Azione che non necessita e soprattutto non vuole intermediari, rappresentanti o esegeti di sorta, né chi lo spiega, né chi la utilizza politicamente, né chi ci fa della letteratura sopra. Cioè l'azione che vuole andare a colpire direttamente senza deleghe ed intermediari, appunto quando ci opprime e limita la nostra libertà. Fino a qualche anno fa l'azione diretta era nel linguaggio comune antiautoritario sinonimo di un'azione d'attacco, senza specificarne né quantificarne caratteristiche ed entità. Visto che non esistono gradualismi di sorta in questo ambito, piuttosto valutazioni su contesto, efficacia, imprevedibilità, eccetera. Visto il perdurare dell'utilizzo politico limitante e strumentalizzato da parte di alcuni, è nata la necessità di puntualizzare un po' meglio la questione. In quest'ottica leggo le differenti posizioni e tensioni alla discussione che nascono ora, ben inteso, tensioni per me positive e credo costruttive. Porre l'accento sulla necessità dell'attacco distruttivo come discrimine nella lotta antiautoritaria al dominio non significa volersi porre come degli ottusi, rigidi militanti che bava alla bocca e coltello tra i denti denigrano o sacrificano qualsiasi altro aspetto della propria esistenza. I lati costruttivi ludici di piacere anelliamo tutti ad averli, li costruiamo o almeno ci proviamo quotidianamente. L'idea è la realtà di condividere ottime condizioni di vita con i compagni o complici di pensiero e di azione e le coltiviamo da sempre. Questa credo sia un'ovvietà che rapporti di merda. Vivremmo diversamente. Invece a volte sento sostenute come parte di un percorso di lotta costruttivo, come azione diretta appunto, quelle che dovrebbero essere delle attività e competenze quotidiane e minime tra anarchici, almeno tra un certo tipo di questi. Quando leggo del rivendicarsi come azione diretta o come propedeutiche alla stessa alcune pratiche di base tra compagni, o meglio tra individui con tensioni solidali e affini, provo lo stesso senso di disappunto e fastidio che in anni passati provavo per la rivendicazione di quattro chiodi piantati in compagnia come autocostruzioni di qualche chilo di farina impastato a file sedan, come laboratorio autogestito vegan, o che dir si voglia la condivisione dei viveri e bevande elevata sminuita in bella vita. Insomma, bella vita tra virgolette, insomma, il codificare a norma alternativa, a regola sovversiva, elevare a rango di azione politica, azione diretta, qualsiasi frammento del quotidiano. La legalità, il rifiuto della delega, la perpetua ricerca di rapporti non autoritari dovrebbero essere la nostra bussola, strumenti che dovrebbero condurre ad una meditata, ineluttabile e sentita scelta in luogo di un indecisionismo che ci traghetta nelle lagune del quieto vivere. Insomma, la vita ce l'abbiamo, cerchiamo di vivercela meglio, e se ce la giochiamo o dovremmo mirare a farlo per piacere di scelta e conseguenzialità, non certo per dovere di militanza, tutti i giorni, se abbiamo scelto di combattere attivamente quel che ci opprime, di abbandonare la palude dell'indecisione. Solo che su di un pranzo, un'autocostruzione, un piacere tra i tanti della vita condivisa non stiamo a farci troppi pensieri e parole sopra. Tra l'altro dovremmo desiderare, anzi esigere, che fosse la base minima da cui partire, non una conquista da rivendicarsi come risultato positivo. Ma i pensieri diventano nubi più fitte, i conti non tornano più nel contesto dell'azione distruttiva e negli ambiti repressivi correlati, da lì credo nascano certe puntualizzazioni, e purtroppo anche questo lo sentiamo in molti. Mi farebbe piacere una risposta nei modi e tempi dovuti. Anna. E questo era il testo di risposta a Juan. Poi per chi non ha letto il testo di Juan, lo può trovare sullo stesso bollettino di Croce Nera Anarchica, il numero nuovo di Croce Nera Anarchica, numero 1, ricordo il secondo, però l'altro era stato chiamato numero 0, quindi questo è il numero 1. Testo che vi dico il titolo, il testo di Juan, che è La vita in sé è lotta e la lotta è azione diretta. Quindi o sul bollettino di Croce Nera Anarchica oppure sulla rivista Besnacialie potete trovare l'articolo di Juan, da cui poi è partita la risposta di Anna e quindi dai compagni di Croce Nera Anarchica. Allora, questo era per quando... Io penso che non c'è da aggiungere niente, penso sul testo di Anna, anche perché l'ha spiegato perfettamente. Io in modo più... Truce l'ho spiegato in passato, quando ho attaccato chi difendeva con il coltello tra i denti l'anonimato. Anna l'ha spiegato molto, un pochino molto più limpido rispetto al figlio. Uno deve riconoscere. Penso che dipende da ognuno utilizza il proprio linguaggio, però alla fine il significato è quello, lo stesso. Sì, è quello. Allora, ora ci ascoltiamo un brano, loro sono gli Ad Inferna, il brano è Under My Skin, e poi dopo si torna qui e si ritorna alla nuova lettura di Controinformazione. Adesso, cioè, restiamo in Italia con due notizie. Una da Milano, dove sono stati attaccanti dei bancomat e un altro di lusso in solidarietà con gli anarchici detenuti. Il testo rivendicativo è molto breve. Nella notte di mercoledì 12 novembre abbiamo attaccato 5 bancomat a martellate e vandalizzato alcune auto di lusso, gomme bucate e finestrini rotti. Un minimo gesto di rivolta individuale contro un sistema capitalista che sfrutta e devasta. Dedichiamo questa azione ai compagni e alla compagna accusati dell'attacco al cantiere TAV nel maggio 2013, oltre che a tutti i prigionieri anarchici. Non possiamo restare a guardare mentre i nostri compagni vengono seppelliti sotto anni di carcere, o limitarci ad atti simbolici che non creano alcun fastidio. L'unica solidarietà è l'attacco. Questo era il testo rivendicativo dell'attacco. Da Lecce giunge la notizia sulla sentenza della Corte di Cassazione per quanto riguarda il processo Nottetempo. Il 14 novembre 2014 i giudici della quinta sezione della Corte di Cassazione hanno annullato, con rinvio alla Corte d'Appello di Taranto per competenza territoriale, la condanna per associazione sovversiva a carico di 12 anarchici leccesi inquisiti nel 2005 nell'ambito dell'operazione Nottetempo. I reati specifici sono tutti prescritti. Il primo grado, l'accusa per associazione sovversiva, articolo 277 bis, era stata riformulata in associazione a delinquere, articolo 416, a carico di solo 4 imputati, ed 8 erano stati assolti. Poi, in secondo grado, nel 2010, la Corte d'Appello di Lecce aveva emesso sentenza di condanna per tutti gli imputati per associazione sovversiva semplice, articolo 270. Quando saranno disponibili le motivazioni della Cassazione, si capirà in che modo la Corte di Taranto è chiamata ad esprimersi. Ricordiamo che l'accusa di associazione e di vari reati specifici contestati, istigazione a delinquere, manifestazioni non autorizzate, diffamazione, incendio di alcuni bancomat di Banca d'Intesa, del portone dell'Uomo di Lecce e contro l'abitazione di Don Cesare Lo Deserto, danneggiamento degli erogatori di alcune stazioni di distribuzione carburante esso. Tutti questi erano legati alle lotte in corso contro ex CPT Regina Pacis di San Focal a Lecce e contro la guerra in Iraq, firmato alcuni degli imputati. Questo, la velocità dei processi in Italia, 10 anni per arrivare alla Cassazione di un processo che all'epoca, in operazione all'epoca, vide arrestato un bel po' di compagni a Lecce per gli attacchi in cui si è letto. Diciamo che anche che il prete Don Cesare Lo Deserto era il cappellano, mi sa, del CPT, se ricordo bene, e quindi era stato attaccato proprio per questo modo. Poi un'altra precisazione, loro fanno riferimento al 270, articolo 270, che è l'associazione sovversiva semplice, mentre quella per terrorismo c'ha, accanto al numero 270 c'è il bis, quella c'ha la finalità di terrorismo. L'altra, molto cambia anche per quanto riguarda i tempi di indagine per chi viene arrestato, anche la scadenza termini. Ricordo che per la 416 bis, no, per la 416 che è associazione a delinquere, cioè il massimo della custodia cautelare arriverebbe a tre mesi in più se poi viene richiesto ulteriore tempo e viene concesso, però normalmente sono tre mesi e basta. Per l'associazione sovversiva si parte da sei mesi e poi è rinnovabile dai multipli del 6, quindi si può arrivare fino a quasi a due anni buoni misure cautelari per chi è colpito da 270 bis. Allora, queste erano alcune precisioni anche per chi non conosce purtroppo la giustizia, purtroppo la conosciamo a memoria, l'abbiamo sbattuto la testa dentro, quindi qualche articolo l'ho imparato. Allora, ora ci ascoltiamo un brano degli Analogic Guerrilla e FK, e poi dopo si torna qui e si torna con un altro testo preso sempre da Croce Nera Anarchica, è una risposta di Adriano, compagno Adriano Antonacci, arrestato insieme a Gianluca Iacovacci per una serie di attacchi con filmati a Federazione Anarchica Informale. Allora, ora Analogic Guerrilla e dopo Lettera di Adriano. Yeah. Allora, questi erano Analogic Guerrilla e brano AFK. Ora si ritorna alla controinformazione con un altro testo, che anche questo, come dicevo prima, preso dal nuovo bollettino di Croce Nera Anarchica, e che ancora non avete, a meno chi non ha il giornale, chi non ha avuto il bollettino, non ha avuto modo di leggere su internet. I compagni ancora non hanno caricato il bollettino, di solito lo mettono, quindi ci stanno lavorando, hanno anche da fare i cazzi loro con tra presentazioni del progetto e mazze varie. Allora, dicevo, un contributo da carcere di Adriano, un triste baraccone, vota per Gianluca e Adriano. Questo è il titolo che Adriano mette a questo suo testo, che praticamente è in risposta ad un'azione di solidarietà venuta dagli amici, non dai compagni delle sue zone. Leggiamo meglio cosa è avvenuto, così, cioè, senza andare troppo avanti. Allora, con l'intempestività solita dettata dalla reclusione, ho appreso dell'aggirarsi di un appello pubblico volto ad una raccolta firme in sostegno mio e di Gianluca. Inizialmente ho creduto si trattasse di una proposta per referendum, un referendum sul diritto di resistenza o magari sul legittimo sabotaggio, e mi sono detto: se verrà raggiunto il quorum, che succederà mai? Che si fa? Saremo forse tutti e tutti liberi subito? Assalteremo tutti insieme l'ordine esistente? Avevo la vaga impressione di essere sequestrato dallo Stato, e nel bel mezzo di un processo mi ritrovo invece co-candidato e in piena compagnia elettorale. Mi è venuto un po' di mal di testa. Cari e care compagne, fa caldo, questa villaggiatura immonda non concede valvole di sfogo. Lasciate quindi che sprechi un po' di inghiostro per scrivere qualche ovvietà in merito a questo triste baraccone, e mi raccomando, votate per noi. Con questa mia non voglio esprimere un qualche risentimento nei confronti di quanti hanno promosso l'iniziativa in questione, ci mancherebbe. Posso dire di aver apprezzato da un punto di vista umano, ma dato il mio dissentire, di fatto, sotto ogni aspetto, ritengo sia importante replicare. Non voglio dare eccessivo peso a questa cosa, ma neanche permettere ad artifici politici di fagocitare le ragioni della lotta. La politica, sia pure nella sua eccezione antagonista, non mi piace, non mi appartiene. La piaga cittadinista è sempre in agguato e dimostra una voracità ingombrante, egemonica, tristissima. Essenziale è estrapolare determinate posizioni da una tensione anarchica e anti-autoritaria. Decontestualizzare fa perdere senso e spirito alla tensione stessa, ne cancella l'assenza, praticamente l'annulla. Rifiuto categoricamente la ricerca del consenso sociale indipendentemente dal contesto in cui si manifesta. Cosa me ne frega a me del supporto veloce della società civile? Essa rappresenta la mia indigestione esistenziale. Allora, passiamo adesso, come dicevamo, a un testo di Nikos Romanos che è apparso sull'ultimo numero della rivista Avalanche, che può essere scaricata, c'è anche il link, se non sbaglio. Sì, sì, sì, c'è il link. C'è la fonte. Che qualcuno non si offenda, forse comunque si offenderà per non aver messo un'altra fonte. Abbiamo visto il giornale. No, abbiamo letto il giornale, quindi la riportiamo questa fonte. Allora, su il soggetto di questo testo di Romanos verte sulla organizzazione, sigle ed acronimi, quindi fa parte della questa lunga discussione sull'anonimato o meno. Infatti la rivista Avalanche riporta anche un altro articolo, un altro testo, mette quindi a fronte due scelte opposte, diciamo due idee opposte. Uno è ripreso da una rivista spagnola, Negazione messicana. Spagnola. Adesso mi sfugge il Aversion. Aversion, che invece difende la tesi del anonimato, sempre insomma con lo solito discorso del l'azione appartiene a tutti, quindi deve essere anonima perché altrimenti attira le pressioni, eccetera eccetera, cose che ormai abbiamo letto e riletto. E già che ci sono, vorrei solo dire che questo testo sull'anonimato, quindi pubblicato su Avalanche, inizia con riferimento che questa discussione sull'anonimato è iniziata all'incontro in Svizzera nel novembre del 2012, in questo incontro insurrezionale, se non sbaglio questo era il titolo dell'incontro, dove arrivò una lettera, un testo di certi compagni greci. Io vorrei dire che non è affatto iniziata così questa discussione, perché questo testo, a parte che non è di alcuni compagni greci, ma si sa bene il nome e cognome del compagno, il compagno Mavropoulos del CCF, che aveva inviato questo testo direttamente dal carcere a questo incontro, e questo testo non è affatto stato preso in considerazione, non è stato letto, non è stato discusso, e da queste persone che erano là non è stato neanche pubblicato. Perché? Perché ovviamente il compagno aveva aperto questa discussione su contrario all'anonimato, spiegando il metodo di agire della faie, delle cellule. E questo testo, quindi spagnolo, Aversión, continua a dire che poco tempo dopo è stata pubblicata la risposta sotto il titolo Anonymity, anonimato. Non è affatto poco tempo dopo, perché il compagno Mavropoulos aveva scritto il testo, aveva mandato il testo in novembre 2012, l'anonimato è stato pubblicato, se non sbaglio, appena in settembre del 2013, un anno dopo, quindi insomma ci è voluto 9 mesi per far nascere questa perlina che è il testo anonimato. Invece, se non sbaglio, il testo di Mavropoulos portava il titolo Siamo pochi ma ben determinati, insomma chi vuole leggerlo se lo troverà sicuramente online su qualche sito. Anche sulla reazione era stato pubblicato. Infatti quindi è stato pubblicato. Basta di girare Mavropoulos su, si troverà. Si troverà. E quindi insomma, cioè io questa nascita della discussione in Svizzera non la vedo alquanto dubbia, per non dire falsa. Bene, a parte quindi questa lunga parentesi, adesso passerei quindi all'idea di Romanos, quindi sulla sua sul significato di un'azione firmata. Allora, il seguente testo intende essere la continuazione del dialogo sugli strumenti dell'insurrezione anarchica e sui modi di organizzarci. un dialogo iniziato ad un incontro anarchico internazionale in una campagna francese che adesso continua da una cella del carcere in Grecia. Le opinioni qui espresse sono i miei personali punti di vista, quindi dovrebbe essere chiaro che promuovono una posizione particolare riguardo alla questione. Tuttavia non desidero far prevalere una posizione su tutte le altre. Quello che conta è come i vari, differenti ma complementari punti di vista comunicano e interagiscono tra di loro. Di fronte a un nemico che presenta tanta flessibilità per quanto riguarda l'uso e la molteplicità di mezzi e di forme d'attacco, la diversità delle considerazioni e delle pratiche da parte degli anarchici è assiomatica. Qualunque prospettiva differente non può essere promossa in modo dogmatico, bensì basandosi su un'idea base dell'attacco poliedrico. In primo luogo dobbiamo parlare del vero e proprio concetto dell'organizzazione, una parola alquanto fraintesa negli ambienti anarchici. Ci troviamo di fronte a un nemico con delle funzioni complesse e complicate. Una delle caratteristiche principali che rendono il nemico così potente è la costante evoluzione e l'organizzazione della paranoia sociale che oggi subiamo. Un'organizzazione tecnologica, militare, architettonica, civile, industriale, economica, scientifica. Ogni aspetto di questo mondo è stato organizzato correggendo costantemente le sue imperfezioni attraverso un sistema intelligente che presenta un enorme numero di servitori. Di fronte a queste condizioni, chiunque creda che è capace di combattere senza organizzarsi è come minimo ingenuo. Romanov riporta una citazione di Ulrike Meinhof, uno dei membri fondatori della banda Bader-Meinhof della RAF, e qua io qualcosa di dire perché cita questa gente, tra l'altro stalinista e tra l'altro anche molto contro gli anarchici, la RAF, è andata anche oltre le Brigate Rosse con delle affermazioni a certa gente. Allora, diciamo, leggiamo la citazione di Ulrike Meinhof. Nel 1972 i porci mobilizzarono 150.000 uomini per dare la caccia alla RAF, utilizzando la televisione per coinvolgere la gente nella caccia all'uomo, con l'intervento del cancelliere federale e centralizzando tutte le forze della polizia nelle mani della BKA. Ciò ci fa capire che a questo punto un gruppo di rivoluzionari numericamente insignificanti è stato sufficiente per mettere in moto tutto il materiale e le risorse umane dello Stato. Era già chiaro che il monopolio di Stato sulla violenza aveva dei limiti materiali, che le loro forze potevano essere esaurite, che a livello tattico l'imperialismo è una bestia che divora gli umani, ma a livello strategico è una tigre di carta. Era chiaro che dipende da noi sia la continuazione dell'oppressione che la sua distruzione. Ulrike Meinhof. Poi continua il testo di Nikos Romanos. Possiamo quindi dire che chiunque non si organizza trasformerà se stesso in un'innocua aggregazione che prima o poi sarà assimilata dal meccanismo alienante dell'esistente. Perderanno gli attributi combattivi che li rendono pericolosi a nemico e di conseguenza saranno deportati dal campo di battaglia antagonista. Invece chiunque decide di combattere il sistema avrà bisogno di organizzare la propria ostilità per diventare efficace e pericoloso. Quindi la discussione sui modi di organizzare noi stessi con le caratteristiche insite nei valori anarchici inizia da qualche parte su questo punto. Il dilemma quindi è se ci organizzeremo attraverso un'organizzazione anarchica centrale che sarà il punto di riferimento per il movimento anarchico o in maniera decentralizzata e diffusa attraverso i gruppi di affinità che manterranno la loro autonomia politica sia nei termini d'azione che nelle decisioni collettive. Per quanto riguarda il modo centralizzato di organizzarsi, parlerò in generale invece di utilizzare termini specifici su chi e come ha optato per questo in Grecia. Se guardiamo storicamente, queste due forme di organizzazione sono sempre esistite, ma mai coesistito. Nella guerra civile spagnola gli anarchici erano organizzati a livello centrale per combattere i fascisti e la stessa cosa è avvenuta durante gli altri tentativi rivoluzionari. Il caso è lo stesso con la maggior parte delle organizzazioni di guerriglia urbana dei decenni passati, a cui si accosteranno nuovi compagni nel contesto di un particolare progetto politico, mirando così a rafforzare l'organizzazione invece di una diffusione armata, dove l'autonomia e di ogni individualità si apre alla possibilità di creare fronti caotici di attacco. Questa comprensione dei modi organizzativi non dovrebbe essere vista separatamente dalle condizioni sociali e politiche del periodo. I combattenti di quei periodi studiavano i loro avversari con i propri strumenti analitici. Combattevano per la libertà e pagavano il prezzo con le uccisioni, sentenze pesanti, torture, sanzioni, sezioni di isolamento. Quelli tra loro che non hanno rinunciato ai propri valori fanno la propria valutazione critica delle esperienze acquisite attraverso gli anni, esperienze che ovviamente meritano studi accurati, ma se ci aggrappiamo a questo siamo destinati al fallimento. Quello che conta è cosa stiamo facendo oggi, nell'epoca in cui viviamo. Allora, ora ci fermiamo qua con la lettura del testo, altrimenti diventa troppo lungo. Ci ascoltiamo prima un brano e poi dopo si ritornerà con la seconda parte del testo di Nikos Romanos, percorsi liberatori d'attacco. Il brano che ci andiamo ad ascoltare dei Signal Out 42, Time is Coming, Insurrection, e poi dopo qui per la seconda parte di Nikos Romanos. Your fate, your soul, your fears and your friends. Time is coming, time is coming, time is coming, time is coming. proseguiamo con il testo di Romanos, percorsi liberatori di attacco. Quindi per me l'organizzazione centrale e il centralismo rivoluzionario sono fantasmi che dobbiamo scacciare da noi. Inoltre, un'indicazione di questo è il fatto che tutte le organizzazioni anarchiche centrali rimaste hanno mantenuto solo il glorioso marchio di quell'epoca, sprofondando nel riformismo, mentre nella vita quotidiana rinunciavano all'azione diretta e alla ribellione e non hanno nulla a che fare con qualcosa attinente alla combattività. Si rifiutano di comprendere gli enormi cambiamenti avvenuti a livello sociale e politico. Si rifiutano di parlare del grado di oppressione odierna, dell'avanzamento della scienza, della fascistizzazione tecnologica, del dominio delle multinazionali e continuano a sciorinare teorie ideologizzate sul conflitto tra capitale e lavoro, utilizzando termini che sono stati scritti 100 anni fa in un'altra epoca del capitalismo. Ancora peggio, si rifiutano di agire, incapaci di comprendere che se vivessero nei gloriosi tempi passati che rimpiangono, sarebbero comunque solo delle comparse, dato che non si esporrebbero mai a dei rischi. Ora, per quanto riguarda il centralismo rivoluzionario all'interno dei gruppi di guerriglia urbana, nonostante io capisca le cause e gli effetti che stanno dietro tale scelta, comunque ne sono contrario, perché penso che il nostro scopo non è camminare tutti insieme secondo un comune progetto o programma politico, bensì diffondere i nostri mezzi ed esortare ognuno a salvaguardare la propria autonomia e di conseguenza contribuire alla creazione di nuove percezioni e possibilità per intensificare l'azione anarchica polimorfa. Per questo io opto per l'organizzazione informale, che considero più qualitativa ed efficiente, per motivi che spiegherò più tardi. La componente di base che fornisce tangibilità all'organizzazione informale e non solo, non è altro che l'azione diretta, altrimenti saremo semplicemente un branco di ciarlatani con della retorica dissidente. La cosa più importante per un anarchico è decidere a intraprendere l'azione, perché in questo modo l'individualità supera la paura inflitta dalla dominazione, relativa alla scelta dell'azione rivoluzionaria. Quando intraprendi un'azione, superi i fattori inibitori che ti conducono all'inerzia, prendi la vita nelle tue mani e acquisti la capacità di influire in misura maggiore o minore sulle circostanze che ti definiscono la vita. Intraprendere l'azione equivale a rivendicare le nostre vite che ci sono state rubate, quindi foggiare le caratteristiche di un essere umano libero che combatte per liberarsi dalle loro catene, dai loro doveri sociali su base quotidiana, abolendo i ruoli autoritari imposti e costruendo una cultura che genera la qualità di una vita nuova, la vita di un anarchico insorto che infligge ferite aperte, taglienti al modo odierno. Dopo aver preso questa decisione, arriva la sperimentazione. Gli anarchici non dovrebbero avere delle posizioni fisse, loro sono costantemente in movimento, perché senza il movimento vengono portati all'autodistruzione dal dogmatismo ideologico. Loro considerano le cose, criticano se stessi ed esplorano l'esperienza collettiva per adattarla al corrente periodo storico. Loro congelano il proprio cuore per sopportare il dolore e danno fuoco a ciò che resta per cancellare le tracce della loro quieta vita passata. Da questo punto in poi quello che conta è la lotta, ma anche la vendetta, perché chiunque abbia vissuto la violenza in prima persona e non ha cercato vendetta, ebbene si merita la propria sofferenza. Ma torniamo alla questione della sperimentazione pratica, cioè all'azione con i suoi numerosi modi, metodi e forme. Io penso che l'organizzazione dei nostri desideri dovrebbe essere espressa attraverso la rete di d'azione, di elevato carattere distintivo, dove tutti saranno capaci di leggere le parole e le opere di ognuno, di trovare ispirazione, riflettere e agire assieme a noi, o combattere contro di noi. Essere visibili in modo comunicativo fa parte del nostro intento di realizzare il massimo grado di polarizzazione sociale, per mettere in chiaro il ruolo che ognuno ha nell'edificio autoritario e poi passare dalla critica armata ad una critica fatta di armi. A mio parere, la rivendicazione è ciò che dà significato ad un'azione, la conduce ai tuoi obiettivi desiderati e spiega a chiunque sia interessato a rompere il circolo vizioso di oppressione e passare all'offensiva i motivi e le ragioni che ti hanno portato a realizzarla, semplice e chiaro. In un mondo strapieno di informazione generalizzata e terrorismo di bombardamenti virtuali, nessuna azione può parlare da sola finché i soggetti autori non ne parlano. L'elevato carattere distintivo che ho menzionato sopra si riferisce ad entrambi invariabili nomi e acronimi insurrezionali. Per me i nomi invariabili nelle azioni insurrezionali sono di un'importanza particolare, perché in questo modo le tue azioni sono collegate una ad altra e nello stesso tempo intensificano il proprio slancio. Inoltre, il tuo discorso assume maggiore importanza se è connesso alla consistenza della tua azione. Hai la possibilità di elaborare strategie d'azione insurrezionale, rendendone tutto il tuo pensiero comprensibile, creare un punto di riferimento e lanciare una sfida ad agire. Quindi, inasprire la minaccia rivoluzionaria spezzando il monopolio statale sulla violenza. E come anarchici rivendicare la propria parte della violenza per volgerla contro il nemico. Passando ora all'utilizzo degli acronimi, è utile allo stesso modo a un livello più ampio. La loro importanza principale è il loro contributo a riconoscere la resistenza che si manifesta senza un centro, ma bensì orizzontalmente e caoticamente nello stesso tempo, dipendente dalle scelte dei ribelli. Penso che l'esistenza degli acronimi è importante anche come mezzo di propaganda. Le reti di traduzione possono svolgere il lavoro del messaggero tra i gruppi insurrezionali, indipendentemente dal fatto che questi utilizzano un acronimo o meno. Tuttavia, l'esistenza di una o più reti informali che usano gli acronimi e si riconoscono tra di loro aumenta lo slancio delle azioni inserendole in un contesto globale piuttosto che frammentario e crea una struttura solida per quanto riguarda la sua esistenza, cioè l'azione continua che è anarchica e insurrezionale nelle sue radici. Questa era la seconda parte del testo di Nikos. Ora, prima di passare alla terza, all'epilogo, ci ascoltiamo un brano e dopo si torna qui con l'epilogo del testo di Romanos e i saluti. Town with a pop gun up your ass. E questi erano KFDM con il brano Me and My Gun. Ora si passa all'ultimo pezzo, l'ultimo pezzetto del lungo testo di Nikos Romanos su organizzazioni, sigle, acronimi. Ultimo pezzo che ha per titolo invece dell'epilogo, o al posto dell'epilogo. Ora si discuteva su questa cosa di come tradurre in inglese instead of epilogue. E se avete qualche consiglio idea di tradurre meglio, allora, fatecelo sapere. Allora, invece dell'epilogo, è ormai chiaro che nel nome della sicurezza cittadina sono state fabbricate minacce sociali e artificiali in modo da fornire un alibi politica per commettere i più grandi crimini statali, istituendo sempre più pratiche di controllo e di sorveglianza e inasprendo le leggi antiterrorismo. Tutto questo con lo scopo di consentire ai cittadini privilegiati dei paesi sviluppati che si sono aggiudicati questo prestigioso titolo di sentirsi sicure mentre i loro statalisti protettori intensamente e indistintamente seminano morte attorno a loro. È per questo che immagino una condizione belligerante nei centri urbani in cui i ribelli ogni giorno celebrano piani d'attacco, creando una minaccia asimmetrica che farà a pezzi la coesione sociale, la coesione sociale e la stabilità politica, e seminerà insicurezza nei centri riproduttivi del capitalismo. Il flusso regolare di merci non sarà più dato per scontato e i rappresentanti dell'oppressione vivranno nella paura. Non abbiamo cosa aspettare, quindi organizziamoci e colpiamo la società del capitalismo. Le azioni rivoluzionarie formano le condizioni oggettive, allora moltiplichiamole. Forza a tutti i compagni detenuti e fuggitivi, forza ai quattro anarchici, sciopero della fame in Messico, Nikos Romanos, carcere di Korydallos, c'è un indirizzo che noi eviteremo di mettere. Ottobre 2014. Lo ripeto, questo è il testo. Allora, questo è il testo preso dalla rivista Avalanche. O Avalanche, che in inglese e francese si dice allo stesso modo, per dire come si dice? Avalanche. Si dice la valanga in italiano. La valanga. Allora, quindi arriva a noi un po' più in ritardo. Invece il testo finisce con una nota, perché alla fine lui dà una forza ai quattro anarchici dello sciopero della fame in Messico. Quando questo testo è stato scritto, Fernando Barcenas, Abraham Cortés Avillar, Carlos López Marín e Mario González, detenuti nelle differenti carceri in Messico, erano ancora in sciopero della fame. Il 17 ottobre 2014 i compagni hanno fermato il loro sciopero. Il 31 ottobre Mario González è stato rilasciato dal carcere. Libertà per tutti. E questa era l'ultima notizia di controinformazione per oggi. No, c'era un'altra. Sulle condizioni del compagno. Ah, ci sono le condizioni, sì. Prima di lasciare, diciamo, le condizioni di salute di Nikos Romanos, che è in sciopero della fame dal 10 novembre. Allora, secondo le informazioni del medico che ha visitato Nikos Romanos questa mattina, 18 novembre, al nono giorno di sciopero della fame, il compagno di 21 anni ha perso 6 kg e avverte più debolezza e stanchezza dall'ultima volta. Nikos ha detto che l'assunzione di liquidi continua ad essere limitata e da ieri non ha preso zuccheri nei liquidi. Il livello misurato di glucosio nel sangue è di 58, ha vertigini, lievi difficoltà respiratorie e moderata disidratazione. Il medico raccomanda che il compagno deve essere visitato ogni 2 giorni, se non avvenga nulla di grave nel frattempo. Seguiranno aggiornamenti. E questa era veramente l'ultima notizia. Aggiungere. Non mi sono dimenticato niente. No, non ti sei dimenticato nulla. Ho capito, vuoi arrivare alle 19 precise. Non sono le 19:19. Non ti pago gli straordinari. La radiazione non paga straordinari. Nelle traduzioni, niente. Nulla di nulla. No, volevo solo aggiungere che i compagni di Act for Freedom hanno oggi lanciato una chiamata all'azione di solidarietà internazionale con il compagno Nikos Romanos, e con anche un manifesto apposito che è stato fatto e che a breve sarà pubblicato anche su Radiazione croata e italiana, la ricordo. Entrambe. In entrambe le lingue. Allora, con questo è tutto. È veramente tutto. Questo è veramente tutto. Cioè, tanto non parlare, perché straordinari non te ne pago. La reazione è contro il lavoro e quindi contro gli straordinari. No, è solo Marcello, ti ha fatto 5 ore di diretta continua qua. Quindi... No. Radioazione non è contro il lavoro, è contro il pagamento del lavoro. Per lo sfruttamento. Radioazione per lo sfruttamento. E allora, ricordiamo, prima di salutarci, ricordiamo l'appuntamento per la prossima diretta d'azione, che è per lunedì 24 novembre. La diretta d'azione in cui ci sarà la controinformazione, ma soprattutto la lettura di NAN 013 all'inizio come di consueto, e poi lettura alternata tra controinformazione e Nessuno ci salva di Sergius Piasecki. Con questo è tutto, appuntamento a lunedì. Radio Azione. Radioazione.org. Radio Azione. Controinformazione, letture, provocazioni, musica. Radio Azione. Radioazione.org. Radio Azione. Controinformazione, letture, provocazioni.